Scuola in controluce. I ragazzi dell'Emilia Romagna stanno facendo scuola a scuola. È un po' questo il filo conduttore delle chiacchierate che ci siamo fatti in questi giorni con insegnanti e presidi delle zone terremotate dell'Emilia. Nessuno ha lasciato il proprio paese, tutti hanno un luogo sicuro dove studiare. Prosegue l'impegno di Radio 24 per l'Emilia, l'Emilia che riparte, che vuole ripartire. Tutti i giorni il viaggio nei GR delle 13, delle 7 e delle 19, poi giornata speciale venerdì 14, Focus Economia, lo speciale dalle 21 alle 23 in onda in diretta da Villa Tagliata, Mirandola, in provincia di Modena. Tantissime le testimonianze che ascolteremo insieme. Bene, oggi a Scuola in Controluce invece facciamo il punto sulle scuole con una nostra vecchia conoscenza, Stefano Versari, vice direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna. Allora, noi abbiamo avuto il terremoto, ha toccato più di 65.000 studenti con 230 edifici danneggiati. Di questi 230, un'ottantina sono andati praticamente persi, distrutti, irrecuperabili. Sono state quindi costruite ulteriori strutture di due tipologie, alcune di natura modulare, altre di natura provvisoria, ma non sono, come dire, i container. Quindi complessivamente sono stati costruiti 28 edifici temporanei e 30 edifici modulari, per un totale appunto di circa 60 edifici che hanno sostituito tutti gli edifici distrutti. Insomma, comunque parliamo di prefabbricati e container, lei non li vuole chiamare così, ma sono così. Allora, gli edifici temporanei sono temporaneità cinquantennale, cioè sono edifici che hanno una durata di 50 anni, in legno, a risparmio energetico, antisismico, con strutture, pareti, divisorie precablate. La differenza è che noi abbiamo in Italia la cultura dell'edificio in muratura, ma questi sono edifici, anzi addirittura stiamo pensando con l'assessorato all'istruzione della Regione Emilia-Romagna un convegno, perché diversi enti locali stanno pensando che se è possibile costruire scuole in tempi così ridotti con questi risultati di questa portata, forse bisogna cominciare a modificare. Visto che si parla tanto di edilizia scolastica, di scuole che andrebbero insomma in qualche modo sistemate, ma non ci sono i soldi, forse questa può essere un'alternativa valida, dice lei. Sembra sicuramente un'alternativa valida. Ecco, si è scatenata una gara di solidarietà, no, in tutto il paese nei confronti delle scuole dell'Emilia Romagna. Sono arrivati poi questi soldi o no? Sono arrivate risorse in misura ingentissima. Tramite Adotta una Scuola sono arrivate oltre 1 milione di euro. Questo 1 milione di euro è arrivato con, sostanzialmente noi abbiamo fatto gemellaggi, abbiamo messo in contatto i donatori con le scuole, quindi c'è stata una consegna diretta, e questo ha consentito sia di evitare perdite di tempo nel far arrivare le risorse o le tecnologie alle scuole, e sia ha consentito a chi donava di entrare in contatto diretto con il disagio, la difficoltà, ma anche la bellezza di scuole che stavano cercando di risollevarsi da questa tragedia. Cosa resta da fare a questo punto, dottor Versari? Noi in realtà non ci fermiamo, guardi, anche su Adotta una Scuola continuiamo a ricevere donazioni, perché tutto quello che stiamo ricevendo continuiamo a utilizzarlo non solo per riportare scuole come erano prima, ma per migliorarle. Abbiamo avuto decine di donazioni di classe 2.0, cioè di tablet per i ragazzi nelle classi. Siccome molti di questi ragazzi non hanno più l'abitazione propria, hanno perso tutte le tecnologie, le biblioteche, poter dare in classe ad ognuno di loro un tablet e una connessione per poter sviluppare una didattica online è uno strumento di ricollegamento, di risocializzazione anche con i mondi esterni, laddove tutto il resto è ancora in grossissime difficoltà. Com'è l'umore degli operatori del settore, presidi, che lei sentirà quotidianamente, insomma? Guardi, nel settore della scuola c'è una grande soddisfazione. Io sono riuscito a assegnare, grazie alla disponibilità del Ministero, ulteriori circa 300 unità di personale per far fronte alle situazioni di difficoltà. In dotazione di personale, attrezzature, tecnologie, il clima è molto positivo. Tutti quelli che incontro, presidi e dirigenti scolastici, mi dicono, docenti, mi dicono sempre: ci siamo sentiti accompagnati, non ci avete lasciati soli. Raffaella Pellecani è la dirigente scolastica di ben 6 scuole fra Cavezzo, Medolla e San Prospero, centri fortemente colpiti dal terremoto. Si tratta di 3 scuole dell'infanzia e 3 primarie. Buongiorno, signora Pellecani. Buongiorno. Allora, anche lei non si è sentita sola come dirigente scolastica? No, non mi sono sentita sola. Confermo quello che ha detto il dottor Versari. L'ufficio scolastico regionale ci è stato molto, molto vicino, fin da subito. Oggi i bambini delle sue 6 scuole sono fra container e prefabbricati. Com'è l'umore, signora? Perché insomma ci sono anche un po' di problemini, no? Mi raccontava? Sì, allora noi siamo felicemente sistemati entro la fine di ottobre. I ragazzi hanno trovato tutti una sistemazione, chiamiamolo temporanea, però in realtà per le scuole di Cavezzo è pressoché definitiva, nel senso che sono edifici scolastici a tutti gli effetti, perché lì le scuole sono state gravemente, gli edifici gravemente danneggiati, e quindi sì. Occorreva dare una sistemazione duratura, mentre invece nelle altre scuole, negli altri comuni, sono stati collocati presso questi moduli, sempre messi a disposizione dalla regione in tempi record, e naturalmente sono esteticamente meno gradevoli, però gli insegnanti sostengono che ci si può vivere naturalmente. Quali sono i problemi, signora? Beh, i problemi sono gli spazi, perché la regione si è mossa in tempi rapidissimi e ci ha dato degli spazi essenziali. A noi resta da completare questi edifici con degli spazi aggiuntivi a cui eravamo abituati, laboratori, aule speciali, che sono indispensabili per la didattica, soprattutto in realtà organizzate a tempo pieno, ma questo contiamo di farlo con interventi ancora della regione, delle amministrazioni, grazie alle donazioni, e quindi c'è un certo fermento. C'è molto fermento, ma insomma c'è ancora molto da fare. Grazie mille, grazie a Raffaella Pellecani, dirigente scolastica di Cavezzo, Medolla e San Prospero. Radio Immaginaria. Eravamo a scuola e non è stato molto bello, vero Marta? No, la scuola ondeggiava del tutto e i muri tremavano. Ecco, così Marta e Martina, due ragazzine di 11 anni, raccontavano a fine maggio quella scossa di terremoto che l'aveva sorpresa a scuola. Raccontavano la loro esperienza su Radio Immaginaria, una web radio gestita da un gruppo di volontari, ma soprattutto dai ragazzi stessi della secondaria di primo e secondo grado. Fra coloro che organizzano e gestiscono Radio Immaginaria, Piera Viperini, assistente sociale, mamma di 2 bambini della prima, Maria, una delle medie, a San Giovanni Persiceto. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. Allora, il terremoto ha trovato su Radio Immaginaria un veicolo importante, no? Un modo perché i ragazzi potessero raccontare un'esperienza che comunque non deve essere stata sicuramente molto facile e forse per certi versi non l'è ancora. Sinteticissimamente, come sono messi i suoi 3 figli a scuola a San Giovanni Persiceto? A San Giovanni in Persiceto le scuole sono messe così, le scuole medie non sono state danneggiate, quindi stanno funzionando in maniera regolare, mentre la primaria è stata danneggiata, purtroppo non è ancora agibile, non lo sarà, per cui i bimbi sono stati sistemati in queste scuole provvisorie, come venivano raccontate prima. Ne sono stati fatti di 2 tipi, una prima tipologia che accoglie un numero piccolo di bimbi, 5 classi, e questa tipologia è destinata a durare un po' più nel tempo, quindi effettivamente un prefabbricato in muratura che più sembra scuola, proprio scuola vera, diciamo così. E qualcuna sembra un po' meno. Ecco, molto importante anche il ruolo delle famiglie. A San Giovanni è stato molto forte, ecco, si è costituito un comitato che è stato chiamato TVB Quacquarelli, è il comitato Ti voglio bene alle nostre scuole, diciamo così, che ha raccolto con tantissime iniziative diverse, iniziative teatrali, vendita di oggetti per le scuole, tante iniziative per raccogliere fondi per contribuire a ristrutturare le scuole elementari. E allora grazie mille anche a Piera Viperini, questa mamma coraggiosa di San Giovanni Persiceto. Vi ricordo Scuola in Controluce anche su Facebook, ci risentiamo lunedì alle 13:30.